Stato su Radio Wombat, il colpo di stato di Capodanno! Comunicato a radio unificate, questo è il colpo di stato di Radio Wombat. Abbiamo spodestato il palinsesto che non c'è. Dopo il colpo di stato, meglio conosciuto o passato alla storia come golpe borghese, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970, questo è il secondo capitolo del golpe di stato. Vai avanti, vai avanti! Mi dia tempo, perché gli storiografi come me necessitano di varie analisi, di varie forme di... Storiografi come me hanno bisogno di un'attenta e profonda analisi di quello che sono stati i vari eventi che si sono succeduti durante il golpe borghese. A distanza di dal 1970 a oggi, datemi una calcolatrice, sono quanti anni? Sono 37, dottor Mieli, quasi 37. 37 è 47, ce n'ho io 37. 47. 40, sono 47 anni, a distanza di 47 anni il golpe si ripropone con le stesse facce, le stesse ombre di un potere corrotto, servizi segreti deviati, DJ corrotti per qualche disco e un goccio di birra che si offrono. Quanti sacrifici fatti per i nostri figli, lottato, scritto libri che nessuno ha mai letto, favole incompiute, Clash, Polisomma Beck, no, sai che significa, Clash in generale, come, ragazzi, no, è un golpe questo. Questo è un vero golpe, questo è un saluto alla Raffaellona nazionale che ha detto che si ritira dalle scene. Comunque io penso che dopo questo golpe mi ritirerò a vita privata, anche perché ne ho fatti diversi, tutti falliti chiaramente. Dopo questo mi ritirerò a vita privata, penso di... mi ha preso anche a me un golpe, non lo so. Mo ti venisce un golpe! Satana di vanità! Volgarità, Satana, fatalità. Giovane, a quanto le fate le cozze? Noi vogliamo sapere cosa fate per Capodanno e anche per Natale a pranzo, eh? Capodanno inizia il primo, ma in realtà noi si lavora dal 29, perché qui è tutto uno spacciare. Ma per Natale quando succede domani mattina? Signora Lilia, ci dica lei cosa prepara per il Capodanno? Vengo io, per il Capodanno, faccio il pago, lo tampone dei cani. Penso c'è, cioè significa che non c'è niente di zampa, non c'è niente di one, è solo una verdura retretta, non lo immagino, non sai che gusto, mamma mia, nemmeno mio marito con la pressione alta, madonnina. È garantita. Ma è per quello, perché sennò uno poi va a finire che va sempre dal medico col ticket, che poi non galpega neanche più. Vai là col ticket e poi dopo cosa ti dicono? Che non possono farci niente. E allora io ho letto su Star Bene che mangiare le robe vegane. Su Star Bene, ma lo leggo anche io. Allora ascolta, te. Me l'ha consigliato la Lilia alla mia zia. Ma lì ancora quella di Ferrara? La Lilia è quella con il pavone nel giardino. Ma allora? Bene a poco. Allora, se non l'avete ancora capito, siamo una radio pirata di una radio pirata su la radio Wombat Radio 2.0. Beh, ma io non lo sapevo mica se era pirata, non venivo. Beh, ma mi piace sti qui bagai che ha. Piratiamo noi stessi. E a questo punto vorrei mandarvi, visto che siamo in clima natalizio, un bel pezzettino di Natale. Non ci ha spodestato praticamente questo giovinotto. La ricetta ve la diamo dopo. Per fare una canzone di Natale non basta un argomento natalizio, ma occorre un ingrediente più speciale, lo zenzero. Ma chi l'avrebbe detto che lo zenzero in fondo è il vero fulcro del Natale? Non il presepe, non Gesù bambino, ma lo zenzero. E non è ironico che questo zenzero sia tipico dell'Asia tropicale, un posto dove ignorano il Natale, ma quanto a zenzero. Molla lì. Provieni dall'Oriente, il cui rizoma è usato come eupeptico, in farmacia, cucina e nei liquori, e ovviamente nel Natale. Sapete poi cosa vuol dire eupeptico? Significa che ti fa digerire, per cui dopo il cenone di Natale, diciamoci l'un l'altro eupepsia. E non venite a dirci che lo zenzero era già in voga prima di stavolta. Vogliamo ci sia riconosciuto il merito dello zenzero. Attenzione, attenzione, attenzione. Questo è un comunicato. Non è uno scherzo. Abbiamo sequestrato uno dei tre re magi. Veramente colui che trasporta oro, abbiamo già piazzato l'oro nei vendoro, abbiamo sequestrato uno dei tre re magi, attenzione, quello che porta oro, Baldassarre, La cifra del riscatto ve la comunicheremo appena deciso la cifra. E chi non fosse ancora straconvinto che zenzero significa Natale, provasse ad assaggiare un biscottino allo zenzero. Natale allo zenzero, presepe allo zenzero, tanti auguroni allo zenzero. Stappare lo zenzero, brindare allo zenzero, gridare fortissimo. Bene, bene, dopo questo simpatico motivetto allo zenzero vi mandiamo subito un'altra canzone di Natale, perché siamo molto natalizi questa sera qui su Radio Wombat, di Radio Wombat con Radio Wombat. È meta Wombat. Buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando. Buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando, buon Natale e, mi raccomando. Allora, buon Natale e mi raccomando. Allora andiamo avanti con questa trasmissione improvvisata con un altro pezzo. Cold Blooded Christmas di John LaJoy. On Christmas Eve I was dreaming of the soft white snow. I was awoken by a noise near the Christmas tree. What it was I did not know. Santa Claus, he was bringing me some gifts. Unfortunately, I did not know that. I didn't know. So I quietly snuck up behind him and I shot him 5 times in the back. It went pow, pow, pow, pow, pow. He said, "What the fuck? Ow, ow, ow." Then I shot him 3 more times in the head. Pieces of his brain flew out and he was dead. That's when I noticed his blood-soaked beard and his red suit filled with bullet holes. Uh-oh. I said, "Oh my God, I killed Santa Claus. I'm not going to jail for this, asshole." Hell no. So I went to my shed and I got my saw and I started to choppity-chop-chop. Chop-chop-chop. I started with his arms, then his legs, then his head, and then the torso was a really long job. And the blood went spurt, spurt, spurt. It was really hard work, work, work. It was hard cutting through his spine. I must have vomited 16 times. I burned all the pieces in my fireplace. The smell of burning human flesh filled my nose. Sizzle, sizzle. 11 hours later, there was nothing left. And that's when I heard my telephone. It was Auntie Jean looking for Uncle Bob. She said he left the house dressed as Santa Claus. But he didn't come home last night. Have you seen him? God, I hope he's all right. The murder that you have just witnessed was planned and executed by a trained professional. Please do not attempt to murder anyone without proper supervision. I'm just a regular, everyday, normal guy. I like spending Christmas with my family, motherfuckers. I'm just a regular, everyday, normal guy. And I'm pretty good at nicely wrapping gifts. Oye, Cuba, esto es con la loca es real. Bicha. La pandemia, tú sabes, para los que se van y no vuelven más. Cuando salí de La Habana de nadie me despedí, nadie. Solo de un perrito chino que venía detrás de mí. Por razones y motivos un día me vi obligado a abandonar. Vámonos, vámonos, vámonos. Buscando el dueño de la gran manzana a 90 millas de La Habana. Ay, mamá. Tuve que separarme de mi madre, de mi esposa, mis amigos y de la gente que iba a pasar. Hace rato que no sé nada de allá. Nada de nada. Los recuerdos solo me dan por llorar. El dolor en el pecho que no puedo aguantar. Y es por eso que te tengo que cantar. Se extraña, Cuba se extraña. Aunque tú vives en Miami, aunque tú vives en Italia. Se extraña, Cuba se extraña. Aunque tú vives en Nueva York, aunque tú vives en España. No lo dejas, se fue para Yuma, luchar en su yuca. Y ahora llama desespera porque no le gusta. Dice que el frío que hace no lo puede aguantar. ¿Qué más, papá? Golpe, digamos, multicultural, internacional. O sea, yo acabo de llegar en esa ciudad, ¿cómo se llama? Florencia, no, así dicen los españoles, yo digo Florencia. Este, Radio Bombate, mucho gusto, soy feliz del golpe que agarramos esta regia. Muy linda, muy preciosa. O sea, yo iba caminando solito por la calle en una noche de lluvia, de frío, y me encontré en esos muchachos revolucionarios que... Bueno, señorita, déjame trabajar en paz. O sea, yo iba... Bueno, eso es el cuento. Si quieren que se lo diga, si no, me voy. O sea, voy a hacer la revolución en otro país, en otra ciudad. Entonces el cuento es que yo iba caminando solito, de perdido por la calle y no sabía dónde iba, no tenía ni dirección ni nada. Y así de repente me encontré en unos muchachos golpeadores, se puede decir, que me decían, bueno, vente con nosotros que vamos a hacer la revolución de una radio, o sea, vamos a hacer una radio pirata en una radio pirata de los piratas, o sea. Así que me volví loco solo con la explicación, nada. Señorita, no entiendo el italiano, entonces no me digas tonterías porque me molesta. Bueno, este, si hay alguien que puede comunicar conmigo para que entiendan lo demás, sería bueno. Señorita, acérquese al micrófono, ¿no? No te preocupes, ¿no? Adelante, que estoy... No tenga miedo. Bueno, esa fue la primera canción que me encontré en mi longo viaje dando la vuelta al mundo. Y quiero... Cuidado. El Pachuco, espérate, mi amor. Aquí no, mataron el Pachuco. De tanto amigo que era con el Pachuco, ya estoy harto de él. O sea, ya me llenó los huevos, el hijo de puta, no lo quiero más. Bueno, eso era nada más, era una introducción de este largo viaje que hice. ¿Qué vamos a decir a nuestro amigo Pachuco? ¿Puede traducir, señorita, lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ora tradurremo quello che il condottiero colonnello dirà. Ossia, esa era la canzone che puse, che acabo di ponere, era la prima canzone che mi incontré durante il mio largo viaje dando la vuelta al mondo. Che ho sentito mentre ho incominciato il mio viaggio attorno al mondo. Voy alistando la seconda canzone, paquetto. Ora cercherà la seconda canzone. Dame tempo, perché no? Mi dia tempo, signorina. No me iba a hacer una entrevista, señorita. Claro que sí. Entonces apúrate, porque abbiamo notizia intanto della morte di Pachuco. No. Breaking news. Lo mataron. Lo mataron, el frío lo mató. El frío mató. Pero 2016. Lo mataron. Entonces, bueno, yo pensaba de empezar esta nueva era de mi vida con felicidad, con disfrutando aquí mi nuevo. Pensavo di iniziare il mio nuovo cammino di vita qui, in questo posto felice, sfruttando. Lo que era a gozar con la música, la que era la euforia de los golpeadores. Viene con la música de la euforia de los golpeadores. Entonces me encuentro con una noticia muy triste, muy fatal, que mientras purtroppo que me está rompiendo el corazón y el alma. Ho appena sentito una notizia molto triste che mi ha rotto il cuore, spezzato il cuore e l'anima. Entonces, o sea, empecé con una canción muy linda, muy divertida, que así era, como un himno a la vida, a la fiesta, a la felicidad, a la cerveza, y bueno, llegué después de... Ho iniziato con una canzone che era un inno alla vita, alla felicità, alla birra. Bueno, es... Alla cerveza, me dijiste. No, cerveza es como decir amistad. Bueno, entonces me encuentro en una noticia muy triste. E ora ho appena sentito questa notizia molto triste. Y voy a decir, le voy a dedicar esta canción a mi pachuquito lindo que... vi prego, un po' di serietà. Señorita, puede... E ora invece volevo dedicare... Oíme, señorita, puedes invitar a sus compinches a ponerse en manera... Eso, bueno, gracias. Es porque la segunda canción que voy a poner es una dedica especial para mi pachuquito lindo, que ya lo extraño. La segunda canción que andrò a meter es dedicada al mio piccolo amato Pachuco. Que ya lo extraño mucho y... Que ya mi manca tantísimo. Y que nada, que está vivo su recuerdo, sus miradas, sus piernitas que me acariciaban. E ora sopravvivono il Pachuco, le sue zampette che mi acariciavano la cara por la mañana quando amanecía con él en los varios lugares del mundo que conocimos juntos, in ogni luogo del mondo che y ya voy a poner una canción porque me voy a llorar. Traduca, señorita, por favor. E ora metto una canzone perché mi sta venendo la piangere. Muchas gracias, les agradezco mucho. Si el volume lo voy a poner, tranquilito. Me está volviendo loco, cabrón. Llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama. De domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Pachuquito me hace falta, Pachuquito me hace falta, ya, ya te extraño mucho. Ciao, Pachuco, già mi manchi e mi manchi. Bueno, esa era, era un... Para decir este, la, la gente con, que nos está escuchando ahora me, me va a preguntar por qué poniste esta canción. E le persone che ora stanno ascoltando mi starà, si staranno chiedendo perché ho messo questa canzone. Pues nada, porque al final con esa canción no conocimos con el Pachuco. Perché con questa canzone ci siamo conosciuti io e Pachuco. E no, yo estaba viajando en la selva más oscura de Panamá. E io stavo cercando di orientarmi nella selva oscura di Panama. Este, bueno, no era así la traducción, pero bien. digamos que, bueno, es una intérprete muy buena, señorita. Por la plata que le dan es bueno su trabajo. O sea, nada. O sea, nada. Entonces, solo la revolución, lo, digamos, es la ideología que la mueve la revolución, ¿verdad? La, sí, sono qua solamente per l'ideologia che... mi guida en esta revolución. Que su guida, sí, digamos, como bueno. Entonces, nada, esa, conté, estaba contando lo que es la historia de esta canción que me junta con estaba el Pachuco. Estaba contando questa la historia de esta canción que me unisce a Pachuco. Bueno, las señoritas acá me están echando de la radio, no sé por qué. ¿Por qué entonces? ¿Por qué me invitaron? O me sea, están cachando de la radio, no sé por qué me invitaron. O sea, yo iba caminando, yo estaba en mi rumbo, ahí en la calle, y oh, esa gente me molestó. Facevo gli affari miei per la strada e invece questi mi hanno disturbato. E entonces nada, a ver qué tontería van a decir esta gente. E ora quindi mi sono detto, vabbè, andiamo a vedere che cosa dicono queste persone, quali sciocchezze dicono. Che cazzate. Tonteria. Tonteria. Che pendejadas. Puedes decirlo también con un... Che muladas. Che huevadas. No, no, porque la revolución es una cosa seria. Es una cosa seria, como decía también. Como decía Ernesto. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Señores y señoras. Queridito Julio Iglesias. Súbale volumen, señorita. Aquí está. A volte son un bastardo y a volte un mono. A volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi han capito e altre che in malafede mi han ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, so sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi mi dice adesso che sono più buono, ma è col valzer! E laddove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Lilia, ma senti cosa c'è? Ma questa qua? Ma mi ricordo, ma te la ballavi anche te questa qua, eh? Un Vincenzino, dai! Lo ballavo scemo, lo ballavo, mo mi ballava lui, mo già pensa a me, vai, vai! Mo mi ballava e come? Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore. La vita Violeta Parra, el golpe del karaoke. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el dulce que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el cielo al estrellado y en las multitudes el hombre que imposible. Yo trato de encontrar una manera para involucrar todo en esa revolución, pero no, esa gente no se da cuenta de nada. Otro karaoke que todos conocen. No se puede, no se aprecia una sigla. No se puede hacer esta revolución, no se siente nada. Bueno, vamos a buscar otro karaoke que todos conocen. Más otros ídolos, yo. Ven a paja. Venga. Venga, diga. Diga algo. ¿Dónde estamos? Estamos que está sonido. Para terminar el karaoke. Muchas gracias por haber oído nuestro karaoke. Y ahora estamos. Sí, sí, dopo abbiamo già scelto il pezzo successivo, per il karaoke. Non temete. Stiamo scegliendo pezzoni per voi con questo golpe di Capodanno. Santa fiesta, vamos a la playa, a mi mamá baila, ritmo de la noche. Santa fiesta, now we go, where the finish line, where the moon is up. Possiamo lasciare un attimo da soli, eh? Ormai l'ha messa. Ya la puse. Facciuco puse. Bueno, no es un tema en español, pero bien, mira, igual lo van a cantar ustedes. Yo me voy en mi rinconcito a llorar para el palchuco. C'è l'assolo più brutto della storia. Teacher live, don't alone. Da fuori le cuffie siete una cosa imbarazzante. Hey! Hey! Teacher! Education. We don't need no touch control. That's a chasm in the classroom. Da notare l'inglese maccheronico. Teachers leave the kids alone. Se volete essere i prossimi a partecipare al karaoke, scrivete a Wombat, postwombat@insiberia.net. Mandate un provino prima, mi raccomando. Se volete uccidere quelli che hanno fatto il karaoke, scriveteci comunque. Ma posso mettere un pezzo che ci sta? Però studiate prima di proporre voi. Sì, chi la sa? Di assoluto intanto long long intro, no, questo sta andando ora. Nothing else matters. Sempre sui giovani, giovani, giovani, giovani, è la luce dei giovani. Scusate, c'è stato un piccolo qui pro quo. Abbiamo castrato Window Change. Thank you. Thank you.

Ascoltando purtroppo Radio Wombat. Lo sai, io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di te. Di me. Di te, più forte di me. Oh, give me the words. perché sappiate che il golpe comprende anche il fumare in regia così tranquillamente. Thank you. Sì, da campà. Quanti viaggi ci vorrà? Sai se ce la metti tutta. Tutta ce la metti te. The woman in blue, she's asking for revenge. The man in white, that's you, says he has no friends. The river's swollen up with rusty cans, and the trees are burning in your promised land. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in the boxes anymore. Un grande saluto a Gino che ci sta ascoltando. Molto, è molto orgoglioso di noi in questo momento. Porta sempre. Well, you tell me that your lover has a broken limb. You say you're kind of rest. Abbiamo sbagliato un attimo a pigiare qualcosa. No diamonds in the mine. You tell them now. There is no comfort in the covens of the witch. Some very clever doctor went and sterilized the bitch. And the only man of energy, yes, the revolution's pride, he trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. Oh no, there are no grapes upon your vine. And there are no chocolates in your boxes anymore. And there are no diamonds in your. Pezzo è dedicato. Pezzo è dedicato a Gino per farci perdonare. Ora sbaracca il mini salotto di casa tua e fai un po' di breakdance su questo pezzo. Yeah.

siamo alla fine di questa diretta così improvvisata su Radio Wombat e ci rivediamo, comunque ci vediamo domani con il rovescio della medaglia. La nostra programmazione va avanti anche durante le feste di Natale, quindi la programmazione rimarrà invariata e vi lasciamo con un brano che ora stiamo cercando perché comunque vi ricordiamo domani alle 19 il rovescio della medaglia. Sì, ma canali social la ricordate? Mercoledì ci sarà Slick Chick alle 19 e alle 22:30 8 Hz e giovedì il consueto appuntamento con l'Accademia della Brusca. Ancora uno? Perché no? Buon anno nuovo. Sei normale per essere Babbo Natale? Non ci vuole poi molto, in fondo è un lavoro come un altro. Mangia, beve, scorreggia e scopa anche questo Babbo Natale. Dimostralo. Babbo Natale, Babbo Natale, scopami Babbo Natale, scopami Babbo Natale. Almeno posso togliermi il cappello? No, adoro il cappello, oh. Adoro il cappello. Allora. Ah. Ho sempre avuto un debole per Babbo Natale. In caso non te ne fossi accorto. È una specie di legame profondo, infantile. Come la mia fissa per le tette. Sì. È vero, cioè, ti viene da quando eri piccolo. Mio padre era ebreo, noi non festeggiavamo il Natale, quindi c'è il gusto del proibito. E questa era una versione di un estratto da Babbo Bastardo, una nostra versione particolare del Natale. E ora invece vi mandiamo un grande classico. È già partito un grande classico di Natale. Competizione, è la competizione, ancora non troviamo facilmente. È la competizione, i caratteri, come direbbe, non i cluster, ma sono se cercate il pelliciotto che ha nel video George Michael lo vendono all'OBS 39,90. Hai fatto pubblicità all'OVS? OVS. È tanto, ma è il prezzo giusto per un gentino così. Comunque George Michael è un grande esercizio. Dai, su, fai su, dai, dai, dici di dai, mettere e poi non metti, se... metti, dai, metti. Eccolo, eccolo, vai. Buon Natale dal maestro Rocco Obi-Wan Kenobi. Al 25 dicembre ciao. Ho una festa che i bambini mi fanno i regali e i grandi mi abbondano. Maestro Roku, ma non abbiamo capito. Come non avete capito? È Natale! Buon Natale da Radio DJ! Babbo Natale! Quanto tempo è già passato dal Natale zero? L'albero è già pronto ed io sto aspettando te. Con la lista dei doni infinita. Senti quante renne hai consumato per tirar la slitta. Quanti bimbi hai reso lieti o hai fatto piangere. Con balocchi o carbone. Con il problemino del camino che non si usa più, come fai a calarti? Fai come ti pare, ma non prendere pastiglie. Credi di essere il migliore fra i corrieri d'espresso. Forse non ricordi che c'è pure la Befana che consegna di notte. Dicono che non esisti e non mi fa giù. Sappi che ti ho scritto solo per avere piste, macchinine, poi trenini, bici e bamboline. E alla fine, come sempre, la mia nonna mi regalerà 100.000. Incredibile, scrissi a nessuno. Arriva il futuro e tu non ci sei. No, Babbo Natale, arriva il futuro e tu non ci sei. Dove sei andato, Babbo Natale? Con la 100.000 comprerò le cose più utili e meravigliose. Comprerò un'azione di Radio DJ e col tempo licenzierò Lino. Bella raga, buon Natale! Anche se sembra impossibile. Pronto? Chi è? Babbo Natale! Vuoi mangiare da noi? Guarda che fuggibile anche il candy blu. Pronto? Avete chiamato Wal Palomino per farci gli auguri, voi di Radio DJ? Siete troppo i migliori! Con le antenne arriveremo a chi non può ascoltare. Troppo buon Natale! Dal Palomino! E al Palomino si festeggerà. Quindi, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti. Canta coi beats dal 950, esaparecido sul micro, poi mettici l'armata aliena sul tecnici. Com'è? Questa va a chi non smette nel 97. E l'originale universale, perché è così e non cambia. A meno che tu non stia in crew con Tatu a Fantasylandia. Per quanto arrivi tattico, in un attimo la tua strofa va a cappella, perché il DJ aspetta il battito. Il tutto è più che reale, il tutto è assurdo. Catapulto la verità, preparati all'urto. Dipingiamo superfici immense, dominiamo i ritmi in base ai nostri strippi, meglio di un sequencer. È una famiglia di spostati e dà dei risultati inaspettati. Non esiste un modo vero e proprio. C'è chi è sobrio, c'è chi fa bevendo e fumando. È l'incoscienza che ci salva in tasta valva, bella Sandro. E non esiste fare la comparsa. Chi non ne sa passa, chi ne sa scassa. Perché il semaforo è rosso e non c'è posto per chi entra part time. Tocca dimostrare che ne sai, ti tocca di dimostrare se ne sa. Oh oh, se ne sai. La famiglia, ognuno con il suo modo, tutti con lo stesso scopo, dispersi per il globo. La famiglia, stabilia, quando si connette, questa è per chi mi sente, non smette nel 9-7. La famiglia, il tipo fa il gioco del nemico, non ha capito, passami il micro che lo si umilia. La famiglia, aspettando il treno, guardi questo MC come un alieno mentre monto questo beat, finché non lo sereno. Tirate sulle mani fino a dopo domani, da destra a sinistra, tutta la gente che è in pista. E se il mio rap nella gente arrapa come Selene, urla forte assieme a me, Mix Man, Mix Man. E chi ci ferma più, e chi ci ferma, da qui a San Francisco per fare un disco. Non firmo con l'anticristo, resisto al suo potere d'acquisto. Non ci sto con chi per soddisfare le sue smanie sforna cazzate sovrumane. L'hip hop a puttane, rappresento una nazione che va a tempo sullo stesso tempo. Se ce l'avete dentro, tutti quei diavoli non ascoltateli, just keep on rocking it, rocking it. Dedico tutte queste rime, questi scratch, al buon amico Crash, che flash. Almeno ora lo so che quando uno se ne va non ti abbandona, rimane in zona, diventa parte della tua persona. E mentre l'hip hop è in lutto, so che vai di brutto coi tuoi moves e coi tuoi footwork in un'altra dimensione. Da oggi la tua gente arriverà ancora più potente, avviso tutti che non sarà per niente divertente. Per chi non smette nel 97, non metterti mai contro la famiglia, ognuno con il suo modo, tutti con lo stesso scopo, dispersi per il globo. La famiglia, famiglia, quando si connette questa va a chi non smette, 24.7. la famiglia, il tipo fa il gioco del nemico, non ha capito, passami il micro che lo si umilia. E infine ce n'è una per tutte. Questo è per tutti, per tutti, anche per chi rompe il cazzo. Tanto prima o poi ci chiariremo, compare. Se non accetti tutti i differenti assetti, questa roba non si incontrerà mai.